Letture di Radio 24. Due italiani su tre dormono male, mentre i pendolari sono in aumento. Così le ore di sonno per i cittadini italiani diminuiscono. E quelle 8 ore di sonno che sembravano essere una conquista, al pari delle 8 ore di lavoro, sono diventate un miraggio. Sembrava una conquista irrinunciabile, un po' come le 8 ore di lavoro sancite per contratto, il sabato libero o la pausa mensa. E invece, lentamente ma inesorabilmente, la sveglia degli italiani ha cominciato a tornare indietro. E oggi suona, secondo gli ultimi dati raccolti nelle indagini del Centro per i disturbi del sonno delle Molinette di Torino, sul sonno e l'incrocio con quelli sull'orario e i tempi di trasporto, ben 11 minuti prima delle 7, dal lunedì al venerdì, almeno per chi è adulto, attivo e occupato. C'è chi ne fa una teoria e scrive decaloghi per le allodole, chi tesse le lodi del telefono che alle 6 del mattino non suona e consente di lavorare e soprattutto di pensare. Ma la verità è che il tempo che serve agli italiani per spostarsi da casa al lavoro, magari lasciando a scuola i figli lungo il tragitto, si è allungato e non consente di indugiare. Non sempre si tratta di una scelta e neppure di una necessità. Un italiano su tre dorme male e chi ha superato i 60-65 anni e magari è andato in pensione, non sa o non vuole liberarsi da quella sveglia in testa che ti fa aprire gli occhi anche quando potresti poltrire. Poi ci sono tassisti e DJ, panettieri e operai siderurgici, medici di pronto soccorso e agenti di borsa che si occupano di mercati lontani, e ferrovieri, autisti, addetti alla sicurezza. Insomma, un'Italia che sta sveglia mentre gli altri dormono. Più di 2 milioni di persone in un paese che non ha mai limitato per legge, se non in pochi casi come le madri di bambini sotto i 3 anni, il lavoro notturno. Super mattinieri per scelta erano e sono anche personaggi famosi, vecchi e nuovi, da Giovanni Agnelli a Giulio Tremonti, dalla stessa Marcegaglia a Giulio Andreotti, Oliviero Toscani, Giuseppe Pasini. Carmen Belloni, sociologa, tra le massime esperte italiane di studi sul tempo e presidente del CIRSDE, il centro di ricerca universitario che a Torino analizza le questioni femminili, spiega. Le nostre giornate sono sempre più dense. Risultato? Gli spagnoli, che continuano a vivere fino a sera tarda, ma si sono adattati ai criteri europei, ora dormono meno di tutti, mentre un tedesco non si ferma mai o quasi in ufficio dopo le 18. Noi italiani ci troviamo schiacciati nel mezzo, e a fare le spese di questi ritmi sono soprattutto il tempo libero, il tempo per sé, perché lavoro e famiglia non sono riducibili. E se è vero che i problemi di lavoro disturbano il sonno di un terzo degli italiani, come conferma Alessandro Cicolin, neurologo e coautore degli studi Morfeo, è vero anche che la divisione tra allodole, chi si sveglia e volentieri prima delle 7 del mattino, e gufi, chi non dorme prima di mezzanotte, è diventato uno degli ingredienti principali di matrimoni felici o rapidi divorzi. Chi lavora di notte, dice Eurispes, si separa fino a 3 volte di più. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Ore 6:49, italiani giù dal letto, la sveglia suona sempre più presto, pubblicato da Repubblica del 1 febbraio, a firma di Vera Schiavazzi. Letture di Radio 24. Sono 155 le vittime innocenti che la camorra ha mietuto in questi anni in Campania. Maurizio Patriciello, sull'Avvenire, la definisce una vera strage degli innocenti, che dovrebbe far riflettere sulla pervasività dei fenomeni criminali che infestano il mondo occidentale. Mondo occidentale che troppe volte è rimasto a guardare la mala pianta che germoglia indisturbata, coinvolgendo anche le giovani generazioni. 155. Sono 155 le vittime innocenti che la camorra ha mietuto in questi anni in Campania. 155 esseri umani, nostri fratelli, colpevoli di niente, trucidati in tempo di pace in una delle più belle regioni del ricco e orgoglioso mondo occidentale. Una vera strage degli innocenti, alla quale non vogliamo assuefarci, né rassegnarci. Sarebbe sommamente deplorevole lasciar cadere nell'oblio i loro nomi, le loro storie, la loro voce. La camorra non guarda in faccia a nessuno. Non lo ha mai fatto, né intende farlo per il futuro. Assetata di denaro e di potere, mette preventivamente in conto questi che considera imprevisti del mestiere, pur di eliminare chi le sbarra il passo e ripristinare il predominio su cittadini e territorio, ricorre alle armi con disinvoltura. È la legge della giungla trapiantata nei nostri centri urbani. Si ammazza per le strade, nelle case, nei locali pubblici, davanti a una chiesa o al negozio della frutta. I napoletani ritengono un onore stringersi attorno a chi piange e moltiplicare all'infinito il suo grido. 155, ma il numero è destinato a salire vertiginosamente se vi aggiungiamo i tantissimi baby delinquenti ammazzati. L'ultima, tristissima tragedia, avvenuta sabato sera a Quagliano, sempre nel napoletano, ha visto finire senza vita sul selciato antistante un supermarket due giovanissimi rapinatori. 24 anni e già padre di un bambino, il primo, 16 anni appena, un anno in meno di Anthony, anch'esso ucciso a Napoli durante una rapina, il secondo. Si rimane esterrefatti davanti a questi adolescenti con le pistole, minorenni spietati e ingenui che ostentano un coraggio che spaventa. Fanno paura e tenerezza. Chi arma queste mani di bambini? Un destino cieco e sordo o una serie ininterrotta di omissioni da parte di chi avrebbe dovuto vigilare sulle loro vite? Muoiono altri due giovani delinquenti e nessuno se la sente di cantar vittoria. Certo, occorre dirlo forte, non sono eroi e nemmeno sono da paragonare agli innocenti uccisi. Però 16 anni sono veramente pochi per portare tutta la responsabilità di una scelta scellerata. Gianluca Guida, direttore del carcere di Nisida, ha dichiarato che in alcuni quartieri la camorra si sostituisce allo Stato e la gente arriva a condividerne lo stile di vita. È vero. Il problema è questo. I giovanissimi delinquenti sono le prime vittime di un assurdo modo di intendere la vita. La Campania deve chiedersi che cosa ha fatto per questi giovani delinquenti e per i quartieri dove la malapianta criminale continua a germogliare indisturbata. Inutile illudersi. La guerra alla malavita organizzata, forte di una microdelinquenza perniciosa, pericolosissima e asfissiante, non sarà mai vinta senza un'intelligente strategia. Occorre combattere su più fronti. Occorre difendersi e attaccare, accerchiare e intimidire, aiutare e incoraggiare. Occorre dare vita a una catena di montaggio. La Chiesa fa la sua parte raccogliendo e raggruppando i fanciulli e i giovani per farli innamorare del bene e allontanarli dalla strada. Ma non basta. Bisogna sapere concretamente come e dove orientarli perché guardino al futuro con serenità. Altrimenti li perdiamo. Li perde la famiglia. Li perde la Chiesa. Li perde la società. E nessuno potrà sentirsi al sicuro mai, nemmeno sotto casa sua. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La strage degli innocenti e dei ragazzini perduti di Maurizio Patriciello, pubblicato dall'Avvenire del 1 febbraio. Secondo gli psichiatri americani, il narcisismo non è più da considerare come una malattia. Annalena Benini, su Il Foglio, espone qualche riflessione sul narcisista e sulle sue caratteristiche. Quando ci si ama molto, si dà inizio a uno splendido idillio con se stessi che dura tutta la vita. Purtroppo Sigmund Freud ha rovinato l'idillio definendolo una malattia. Il narcisista, ogni riferimento al presidente del Consiglio è del tutto casuale, anzi questa faccenda non lo riguarda, se non ci credete, intercettateci. Ha un disturbo della personalità, una cosa anche abbastanza grave perché, dicono tutti gli psichiatri del mondo, il narcisista non ammetterà mai di esserlo. Il narcisista si considera irresistibile, speciale, trova perfettamente naturale che gli altri lo ammirino e non si capacita del contrario. Non è molto empatico, ma ha bisogno di essere ascoltato, vezzeggiato, ubbidito. E quando si arrabbia, a volte telefona alle trasmissioni televisive. È un egoista patologico, vuole essere aiutato a piacersi, vuole condurre imprese eroiche, è un bambino capriccioso che si sposa, lavora, fa figli, fa carriera, si annoia all'amante. e a tutti quelli che incontra sulla propria strada impone questo sfrenato amore di sé. Molte mogli si struggono, altre si stufano. La psicoterapeuta Umberta Telfener ci scrisse sopra un manuale di sopravvivenza. Ho sposato un narciso, ma il narciso è anche femmina, sia chiaro. Adesso però qualcosa è cambiato. Data l'immensa proliferazione dei narcisisti, le compagnie americane, scrive il Boston Globe, ne sono piene, e nell'aeronautica militare il 20% sono narcisisti, e poiché la maggior parte dei narcisisti hanno anche altri disordini da curare, il Comitato degli Psichiatri americano ha deciso di riclassificare il narcisismo, di ridefinirlo, togliendolo dai disturbi della personalità e considerandolo semplicemente un tratto del carattere, una tendenza. Ad esempio, segni particolari, stempiato, ottimista, narcisista. Secondo il Boston Globe, i narcisisti famosi sono Stalin, Mussolini, Don Corleone, Tony Soprano e il personaggio di Gordon Gekko nel film Wall Street. Ma i non così famosi sono dappertutto. Attori, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi, artisti, parrucchieri, casalinghe. E non importa quanto grande, piccola o non riuscita sia l'impresa eroica che si conduce. Il narcisista è al centro del mondo e ha bisogno delle luci su di sé. Woody Allen rifiutava assolutamente una definizione del genere. Non sono narcisista né egoista, se fossi nato in Grecia non sarei stato Narciso. E chi saresti stato? Giove. Ora, visto che non c'è più il rischio di essere definiti malati e si può continuare tranquillamente a torturare parenti e amici, ecco un piccolo test amatoriale per saggiare il livello di narcisismo percepito. Ami vantarti delle tue conquiste? Ami raccontare barzellette e ti aspetti che ridano tutti? Ti piace raccontare aneddoti che riguardano le tue imprese? Pensi di essere un buon leader? Qualche volta, anche nel sonno, ti capita di urlare «Comunisti! Quanto costa un litro di latte?» Questa non c'entra, ma la fanno tutti. Pensi che tutti dovrebbero volerti bene e ringraziarti? Pensi che le persone subiscano il tuo fascino? Se avete risposto sì a tutte le domande, non preoccupatevi. Non siete Silvio Berlusconi. Siete solo narcisisti. E non è una malattia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Allo specchio di Annalena Benini, pubblicato dal Foglio di mercoledì 26 gennaio.